per te. Dimmi che sarà così, così. Sarà sempre così. Dimmi che poi ci sarà per noi qualcosa che non so, quello che mi resta. Dimmi che poi ci sarà quel sole che scalderà. Tu dimmi che poi ci sarà per noi. Per te non sarà sempre così, così. Non ci saranno più le distanze fra di noi, mistero e falsità. Quello che mi resta non sarà un'immagine di te scritta su una pagina. Non è facile per me dimenticarti. Aspetto un discorso che non torna più. Miraggio di un'eternità che mai più ritornerà. Discorsi chiusi dentro me, dentro me, dentro. Libero non sono mai, liberi i sogni miei, troppo fragile sarò, lo so, son qui.